gentili collega all'ascolto, gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Avesse sparecchiato qualche piatto, forse sarebbe anche un po' più educato, perché un altro suo grosso problema è che è un gran maleducato. E allora niente, allora vai a farti fottere. Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Io volevo proprio mandarla a fanculo, ma proprio con tutto il cuore. Poi tu dimmi se non ci dobbiamo incazzare e soprattutto cosa aspettiamo a commissariare la Sicilia, cioè a mettere un generale. Io direi un generale dei carabinieri, un generale della Guardia di Finanza, un generale della polizia, non lo so. A commissariare la Sicilia, governata per 50 anni da una forza esterna. Forse la Merkel, lo sai? Ci vorrebbe la Merkel in Sicilia a governare la Sicilia. No, sì. Solo la Sicilia. La troica, no, solo la Merkel. No, la Merkel. Merkel, la Germania a governare la Sicilia. Allora, si viene a sapere oggi da un prezioso articolo del quotidiano che tu bistratti tanto, che si chiama Libero. Quotidiano, no, Libero. Sì, molto sì, divertente. Sì. Hai detto di, appunto, tu parli sempre di un quotidiano comico, eccetera, eccetera. Molto divertente, non è un insulto dire che è divertente. No, dai, smettila, su, hai sempre trattato malissimo. Ma dire che una cosa è divertente non è insultante. Vabbè, però, comunque, veniamo a sapere che cosa, magari è una notizia già nota, che il bollo auto praticamente non viene pagato da nessuno in Sicilia. Nessuno. C'è un'evasione record del bollo auto che noi ogni anno paghiamo, io in Lombardia, tu nel Lazio, altre persone in tutte le regioni d'Italia. I siciliani praticamente non lo pagano. C'è un'evasione dal 2000 e non so, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 15 anni di 1 miliardo di euro. E poi chiedono ancora soldi al governo centrale, chiedono ancora i soldi a Roma, credo 300 milioni sia l'ultima richiesta. Praticamente viene pagato il bollo auto che tutti noi paghiamo da meno del 12% del totale. Ragazzi, ma non c'è, tutti i discorsi stanno a zero, crocetta, lo sbiancamento anale, gli arresti, le cose, no, ma non conta più niente. Ma quello non ha, diciamo, no, ma di fronte, sì, ma di fronte a queste cose qui, cioè di fronte al fatto che il bollo auto in Sicilia non lo paga nessuno, poi si può discutere sul bollo auto, io non lo sopporto il bollo auto, no, per me andrebbe soppresso, ma comunque praticamente siamo noi che paghiamo il bollo auto dei siciliani, siamo noi che paghiamo, siete voi che ci state ascoltando che pagate il bollo auto dei siciliani. Ovviamente nessuno pensa a riscuotere questi soldi. Ecco, questo perché. Beh, questa è la cosa fondamentale. Vabbè, altra cosa per cui bisognerebbe incazzarsi come bestie è che gli ex deputati continueranno ad avere i viaggi gratis fino al 2017. Ora, Parenzo, tu sarai d'accordo dicendo che si deve far campare Jerry White, cioè Gerardo Bianco, un ex deputato molto famoso, altri ex deputati, come si muoveranno per l'Italia? Ma fino al 2017 resta 1 milione di euro l'anno, che può essere una piccola cifra, il costo di una casa nel centro di Milano, diciamo, di una casa di 200 metri quadrati al centro di Milano, forse anche meno in realtà, non 200 metri quadrati, ma comunque 1 milione di euro all'anno noi paghiamo per far viaggiare in tutta Italia gli ex deputati, fino al 2017 resta questo cazzo di privilegio. L'inglese di Renzi, che è in Africa, credo sia da Addis Abeba, se non sbaglio, da Addis Abeba. the reason why I came here, and I'm sorry for the delay, but we spent a very interesting night in Brussels to save euro and to try to involve Greek economy in the new strategy, so I'm sorry for the delay. Cioè dice scusate col suo inglese, è anche lodevole l'impegno, però secondo me andrebbe meglio il traduttore direttamente. Si va meglio col traduttore, uno non può fare un passo più lungo di quello, no? Di quello di cui è capace fare. Ma comunque insomma dice scusate per il ritardo qui ad Addis Abeba, ero a salvare l'Europa. Qualche giorno fa si era impegnato anche col francese, Che sia très tranquille con persone, che n'è pas de problème. Je seulement dis que si nous pensons que l'Europe c'est une place des valeurs qu'on a, mais si nous pensons que l'Europe c'est seulement la place dans laquelle nous parlons du budget, du spread. Leggermente meglio, leggermente meglio. Si nous pensons. Berlusconi dice che è orgoglioso che ha tolto lui l'Expo alla Turchia. Purtroppo, io dico, purtroppo. Era meglio l'Expo in Turchia, a Smirne. Perché? Sì. Sai cosa penso dell'Expo io, Sai cosa penso? Era meglio a Smirne. Berlusconi invece dice: sono orgoglioso di avere tolto l'Expo alla Turchia. Questa Expo l'ho fortissimamente voluta io, l'ho conquistata togliendola alla Turchia. Sono entrato anche in rapporti difficili con il mio amico che era il capo del governo turco. Oh, Salvini è schifato dal Papa col crocifisso, cioè il Papa che ha ricevuto quel crocifisso che in realtà è di un artista, crocifisso con la falce e il martello, è schifato perché dice il comunismo ha fatto più vittime del nazismo, cosa vera peraltro, comunque si dice schifato da questa cosa. L'attacco di Salvini al Papa non è una novità, Salvini pensa di sfidare anche il Papa. Io sono rimasto schifato, perché nel nome di quella falce e di quel martello, nel nome del comunismo, sono morti milioni di persone nel mondo e tantissimi cristiani, tantissimi uomini di chiesa, tantissimi frati, suore, parroci. Senti questa cosa di Zaia, a proposito ci sono dei problemi coi profughi naturalmente in varie città italiane, no? Con i clandestini, chiamateli come volete, a Iraclea protestano perché... Profughi. No, anche clandestini si possono arrivare, perché molti di questi profughi in realtà sono clandestini, e comunque tecnicamente sono clandestini, finché non si risolve la loro questione burocratica, in una città del Veneto... Iraclea è al mare... Ad Iraclea dicono che protestano perché la situazione igienica è precaria in un centro profughi, è precaria. Comunque, secondo Zaia, questi profughi che arrivano hanno muscoli sviluppati, tonici, e dunque non si possono dire dei morti di fame. Su 579 comuni del Veneto solo 5 hanno dichiarato disponibilità ad accoglierli, il che vuol dire che noi diciamo di no, anche perché questi non sono profughi. Le avete visto le immagini di Iraclea? Non venitemi a raccontare che gente che ha i muscoli così sviluppati, bei tonici, bei sani, bei in carne, scappano dalla fame. Cioè, ma non esiste questa pantomima qui. Cioè quelli che arrivano in Italia. Ma dove li ha visti? Beh, devo dire anch'io, quelli che arrivano spesso dalle immagini non sembrano dei morti di fame. Ma non che sembrano. Cosa vuol dire? Vabbè, comunque questo è il governatore del Veneto, Zaia, appunto, che dice che i profughi che arrivano non sono morti di fame perché hanno i muscoli sviluppati e sono tonici. Allora, nei giorni scorsi Giorgia Meloni, che pare si sia fidanzata con un autore di Mediaset e si voglia sposare, parentesi, pare, non c'entra nulla. In un'intervista, sì, sembra, però sai, queste cose sono sempre molto... Beh, è un'intervista che ha rilasciato ma lei. Sì, ma oggi c'è l'amore, domani non c'è, cioè, vabbè, questo, è tutta una cosa... Tutte le cose della vita. Questo, tutte le cose della vita, cioè. La Meloni dice che bisogna accettare solo immigrati non musulmani, questo è interessante, cioè non si possono accettare gli immigrati musulmani, in questo periodo bisogna cacciare tutti gli immigrati musulmani, no, cacciare, non accettare quelli che sono qua, non li vuole cacciare, non vuole accettare quelli musulmani. È vero che lei ha proposto di accettare soltanto immigrati non musulmani? Sì, io penso che noi dobbiamo, tra i pochi immigrati che ormai ci possiamo permettere, penso che fino a quando il rischio della violenza o di un'interpretazione violenta dell'Islam è così evidente, noi dovremmo selezionare, diciamo, i nostri, le comunità che possiamo accogliere tra quelle che non hanno questi rischi. Ragazzi, la storia del bollo auto è incredibile, bisognerebbe chiamare siciliani così a tappeto, siciliani a tappeto, evasori del bollo auto, è andata a trovare la famiglia di quella terrorista che è in Siria, arrestati anche loro, i familiari in carcere, Khalid Chaouki, deputato del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Perché buonasera. Sei andato lì? Uno può dire molto, ho letto delle cose, delle critiche, beh, tu sei massacrato su Facebook, su internet, no? Io sono abituato, purtroppo. Sei abituato. Vai. Dicono, ma con tutte le cose la che ci... La lapidazione la praticano nei confronti suoi. Vabbè, adesso, con calma, sì. Si è la... Una lapidazione mediatica nei confronti. Figuriamoci quante cose dicono a me, per carità, anche a Khalid Chaouki, perché è un deputato islamico italiano, ma di origine marocchina, per cui gliene dicono di tutti i colori. Allora, lo lapidano proprio virtualmente, ecco. Allora, Chaouki, con tutte le cose che ci sono da fare, con tutte le persone che ci sono da visitare in carcere, perché sei andato a trovare la famiglia di questo, di questa pseudo terrorista o comunque aderente all'ISIS in Siria? Perché ci sei andato? No, io sono rimasto scioccato e sconvolto come tantissimi da quelle accettazioni che abbiamo letto, cioè ragazzi, una famiglia italianissima che improvvisamente in poche settimane decide di abbracciare l'ISIS, di vuole l'uccisione di quelli che loro chiamano infedeli, e penso che per combattere quella, cioè, è giusto andare a visitare queste persone in carcere? Io non sono andato a visitarli, sono andato per vederli negli occhi. Vabbè, per sì, a capire, visitarli in questo senso. Sì, per capire come sia stato possibile appunto questo lavaggio del cervello. Quindi la mia, diciamo, il fatto di voler andare a vedere proprio per combattere meglio il pericolo che oggi c'è in Italia, che dobbiamo ammettere, il pericolo della propaganda. Ma ci sono tante persone, tanti poveracci da andare a visitare in carcere. Tu dici che questi qua sono vittime, no, pensi che siano davvero vittime di una... Perché il padre, ho letto che dice, noi siamo solamente islamici, non siamo terroristi. Tu ci credi a quello che dice? Io ti dico anche, tra l'altro, sono stato a San Vittore per 4 ore ieri, quindi ho girato tutto il carcere, ho parlato con un sacco di gente, eccetera. Tra di loro c'erano anche questi detenuti. Io non penso siano vittime, io penso loro siano stati in questo caso arrestati giustamente, perché la legge l'abbiamo votata noi, che punisce chi anche decide di andare nella terra dell'ISIS, a prescindere dal fatto che sia armato o meno. Quindi loro sono sotto indagine e giustamente sono stati arrestati, però dico, stiamo attenti, perché non basta semplicemente dire chiudiamoli in galera, dobbiamo fare prevenzione, evitare che altri ragazzi cadano in questa trappola della propaganda dell'ISIS. Ma perché la galera, migliaia di giovani europei sono finiti in Iraq e in Siria ed erano dei ragazzi normalissimi, nel giro di poche settimane si sono trasformati in assassini. Quindi secondo me è un atteggiamento da persona, insomma, che vuole risolvere anche i problemi, capire dove nascono questi problemi, e l'ho trovato utile andare a vederli in faccia, ascoltare quello che vanno da dire. Ma che c'è? Soprattutto ma che mangiano? Che mangiano in carcere? Vogliono mangiare cose diverse dagli altri, secondo te? Ma di questo abbiamo parlato. Loro, alcuni, insomma, la giovane, che era, insomma, quella più che è ancora quella più convinta, era a digiuno perché nel mese di Ramadan, mentre mi sembrava di capire che i genitori invece non stavano aspettando, quindi mangiano come gli altri. Vabbè, un attimo solo, c'è il traffico e poi torniamo. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora, finalmente c'è un sindaco che ragiona, Parenzo, perché non so dove, in provincia di Treviso, un sindaco, io non sono d'accordo nel dare locali pubblici a nessuno, però invece di affrontare il problema della prostituzione come ha fatto il sindaco di Francavilla al Mare ieri sera qui alla Zanzara, dicendo che vuole fare i cartelloni per punire i clienti con le foto dei clienti, invece di punire, di multare chi si avvicina alle prostitute, vuole fare una cosa molto semplice, dare le case chiuse alle prostitute con locali del comune. Io sono contrario a dare locali del comune anche alle prostitute, però meglio questo dei manifesti. Se non vuoi dare le case ai Rom, però sei a favore del fatto che il comune dia le case. No, non sono a favore. Io invece sono d'accordo con questa cosa che il comune può io dare. Non sono a favore a un prezzo agevolato, diciamo. No, io non sono a favore in generale nel dare, le case del comune, ma se sono proprio diroccate e non ci sono soldi per rimetterle a posto, uno le dà incomodato d'uso alle prostitute. Io sono d'accordo anch'io, certo. Beh, meglio così piuttosto che ai rom. Come però per darle ai rom? No, ai rom no, perché distruggerebbero, non le rimetterebbero e a posto. Diciamo. Beh, ma è matematico, cioè è matematico. Allora, voglio chiedere a Khalid Chaouki se secondo lui c'è un pericolo. Lei leggeva oggi che l'ISIS potrebbe attaccare la città di Ravenna perché c'è a Ravenna un qualcosa che si riferisce a Dante, no? A Dante, sì, Alighieri. Sì, sì. Allora, ma chi l'ha inventata questa genialata? Chi è che l'ha? Beh, no, sono delle cose dei servizi segreti, cioè non sono, perché non è possibile, secondo me. La tomba di Dante nel mirino dell'ISIS, la tomba, sì. Ma io penso che le sono puttanate. Ci sono simboli molto più visibili e molto più e che sono stati già anche molto indicati già più volte, insomma, e Roma ospita il Vaticano. Cioè tu non ci credi, non ci credi al fatto che la tomba di Dante a Ravenna possa essere nel mirino dell'ISIS? Ma io penso insomma che sia, ovviamente nessuno può escludere nulla oggi, figuriamoci. Sì, però tu dici che è una genialata, tu hai detto prima chi ha pensato questa genialata, cioè secondo te penso sia abbastanza, insomma, improbabile. Improbabile. Ma anche a Bologna pare, siccome è il ritratto Maometto, ma secondo te ritrarre Maometto è giusto o sbagliato? Cioè si può ritrarre Maometto oggi o no? Ma io penso che oggi si possa ritrarre tutti, ovviamente bisognerebbe stare attenti alla sensibilità di chiunque, da fastidio. Sì, no, d'accordo, la sensibilità, ma si può mettere Maometto, si può ritrarre Maometto, sì o no? Questo ti voglio dire, cioè se io mi metto su un muro, no? E faccio Maometto. Ritraggo Maometto. Io penso di sì. Se poi un musulmano pensa che non è giusto, per lui, no, io non sento, però non ti sento. Khalid, allora, se il musulmano pensa che non sia giusto, ma io voglio chiedere a te: secondo te è giusto o sbagliato? Cioè, è giusto che qualcuno si incazzi se io ritraggo Maometto o no? No, secondo me è giusto che si incazzi. Niente, non c'è niente da fare. Dai, ragazzi, via. Fabio da Bologna, dai, 800 24 00 21. Mi sono rotto il cazzo dei collegamenti che non funzionano. Mi sono rotto i coglioni. Fabio da Bologna, dai. Ciao, buonasera a tutte e due. Basta con collegamenti che non funzionano, basta. Fabio, mi dai. Senti a me? Vai, sì, vai, ciao. Fabio, dimmi. Ciao, io sono conterraneo di Palenzo a Bologna per lavoro adesso. Senti un po', io lavoro in Sicilia dall'81, quindi ogni settimana sto su questa bellissima isola. Conosco un sacco di gente. Guarda che il problema del bollo è una cazzata nei confronti dell'assicurazione, secondo me. Non c'è soldi, la gente non ha soldi, Cruciani. Sì, ma ho capito, non avrà soldi, però se c'è il bollo da pagare, uno lo paga. Io pure posso dire che sono mi rompe le balle pagare il bollo perché lo trovo una tassa assurda. Qualcuno tempo fa ha pensato di abolirlo. Cioè, per me è una follia l'idea stessa del bollo. Però bisogna pagarlo e c'è un'evasione di 1 miliardo di euro in Sicilia. C'è poco da fare. Non lo paga nessuno, in pochi pagano il bollo. Ci chiamassero quei siciliani che pagano il bollo. Perché, Cruciani, se uno mette un po' o ci vado addosso che non c'ho il bollo, ma l'assicurazione paga i danni. Questi non c'hanno neanche l'assicurazione, questo è il problema. E vabbè, non hanno l'assicurazione ancora peggio, no. È diversa la cosa. Io lavoro in una ditta che ha una quarantina di mezzi, e allora c'è uno che deve mantenere due famiglie perché magari il fratello non c'ha lavoro, cioè in pratica, hai capito, si tirano fuori il sangue perché là non è che se uno perde il lavoro lo... Vabbè, guarda, non c'è nessuna giustificazione a questa roba qua, non è che... È pure così. Sarà così, ma non c'è nessuna giustificazione, dai. Andiamo a Udine, Fabio, vai. Sì, Giuseppe... Dimmi, Fabio. Io per due cose prima ho chiamato. Una per il discorso delle multe. Circa 7 anni fa a Lyon ho preso dalla gendarmeria, dalla polizia con le motociclette, 90 euro perché mangiavo un panino. Nello stesso periodo il mio collega ha preso sempre 90 euro a Perpignan Sì, però amico mio, ma non mi puoi parlare di cose di 7 anni fa. Cioè, tu mi chiami alle 18:54 del 13 o 14 di luglio del 2015 per raccontarmi di cose in Francia di 7 anni fa. Cioè, sì, di che parliamo? Già 7 anni fa, senza oggi. Un'altra cosa per quanto riguarda il bollo. Io sono siciliano e vivo a Udine. Però ti posso garantire, io sono uno di quelli che non ha potuto pagare il bollo. In che senso? Sei controtendenza, perché sono d'accordo per la Merkel che gestisce la Sicilia, sarebbe il top. Ma ti garantisco veramente che siamo nella merda. Io sono dovuto emigrare. Ma non c'entra nulla col fatto che non puoi pagare il bollo. Sentiamo Nino da Palermo. Nino? Nino? Buonasera Giuseppe. Dimmi. La chiamo solo per puntualizzare il fatto che già, come hai detto in precedenza dal mio conterraneo di dov'è, solo per puntualizzare il fatto che non siamo tutti siciliani, caro Giuseppe, a non pagare. E chi ha detto che tutti quanti non pagano? Molti non lo pagano. Fermo che dopo torniamo, fermo. La Zanzara. Aspetta, come si chiama? Il programma è su Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. Nonostante le parole di Salvini ieri qui alla Zanzara, F-Ball torna all'attacco, il transessuale italo-turco non si arrende al fatto di essere stata un po' emarginata dalla Lega. A tanti leghisti ho concesso sconti, cioè intende sconti sessuali, credo. Beh, sì. E di quello si occupa la signora. E ho conservato sms compromettenti. Cioè un mezzo ricatto praticamente fa la base leghista. State attenti, se mi rompete ancora i coglioni sul fatto che ho fatto i manifesti col Sole delle Alpi, comincio a dire gli sms che mi mandate e soprattutto chi è venuto da me. Scontri televisivi, ormai è un classico. Santanchè, Librandi sugli immigrati. Nelle nostre belle fontane gli immigrati che si fanno il bidet. Ma è bello vedere i nostri parchi, voglio dire, dove la gente fa i falò per cucinare. Lei il suo paese lo vuole vedere così? Siccome non voglio vedere le nostre fontane gli immigrati che fanno i bidet. Io non l'ho mai visti, lei li ha visti? Sì, io li ho visti. Ah, e lei caspita. Non so dove viva, io li ho visti e più io di io vivo uno. A Milano ed però, è tutto a posto. Librandi, a Milano è tutto a posto. Se lei continua a protestare non succede in Parlamento, sì, dobbiamo risolvere questo problema. Due anni devono diventare 2 mesi, in modo tale che ma i cittadini... Ma guardi che sta lei al governo, senta, mica io. Ascolti, sta ascolti, lei al governo, senta lei una cosa. Il suo ministro dell'interno, mica stiamo, io. Ci stiamo lavorando, è una situazione di emergenza. Lei, guardi, mi ascolta, ha detto troppe senta, di cazzate. Io credo, vado avanti a dire le mie cazzate. Salvini protesta perché in una casa famiglia, non so dove, forse in Veneto, per ragazze madri, alcuni hanno piazzato 5 profughi. Poi vi saluto dalla Toscana, siamo stati a Livorno poc'anzi, una cosa incredibile, c'è una casa famiglia per ragazze madri dove qualche genio ha pensato bene da ieri di piazzare 5 immigrati maschi, ovviamente ci sono mamme sole con bimbi in difficoltà, dove vai a piazzare 5 profughi? Lì, nella casa famiglia per madri in difficoltà, veramente dei rincoglioniti. Allora, sembra che molti siciliani sono incazzati per quello che ho detto prima, ma incazzatevi casomai con Libero e con i titolisti di Libero. Ma in realtà sono dati reali. Il titolo è questo: il bollo auto dei siciliani lo paga il resto d'Italia. Nell'isola, evasione record, oltre 1 miliardo di euro. Riscuotere la tassa è facile, ma la regione preferisce battere cassa a Roma. Guardate che il paragone, per esempio, con il Veneto è imbarazzante. Cioè, il Veneto ha meno veicoli immatricolati della Sicilia, che ne ha oltre 4 milioni, il Veneto 3 milioni e 8, ma il Veneto incassa praticamente il doppio dei soldi. Ragazzi miei, il bollo non lo pagate, ve ne fottete, soprattutto non riscuotete l'arretrato. È un dato di fatto, non c'è niente da fare. È inutile che vi incazzate con me, Giuseppe Trapani. No, certo, ma Giuseppe Trapani, dai. Buongiorno. Dimmi. Senti, io il bollo l'ho sempre pagato. E quando mi è capitato che mia moglie l'ha dimenticato di pagare, mi è arrivata la cartella esattoriale come arriva in tutto il mondo, sì. Prendo giusto dal nord al sud, sì. E l'ho pagata. Ho capito, compresa, Giuseppe, la sanzione tu, gli interessi. Tu l'hai pagato. Altri... ti posso dire un'altra cosa. Sì, ma che c'entri tu? Ora come c'entro io? No, io ma sono, tu l'hai pagato, sei una persona. Ma sei una persona onesta. Stronzo di Libero che. Cioè, è risaputo che è un giornale prettamente, insomma... No, Giuseppe, allora... Ma adesso, scusi, lascia stare Libero, non c'entra Libero. No, c'entra, non faccia lei una difesa d'ufficio per forza, perché il dato è incontestabile. Adesso non è tutti siciliani, ma il dato, ma il dato è incontestabile. Quindi... Cioè, c'è una supposizione di una storia di questo tipo che... No, tra il 2000 e il 2012... Il 90% dei siciliani evade la tassa sull'automobilistica, ma è impossibile. Uno... Perché se no, tu allora, non paghi la tassa automobilistica non puoi vendere l'auto. Allora, da, Giuseppe, devi stare da un anno a questa parte. Allora, da un anno a questa parte, appunto. Da un anno a questa parte. Un'auto se tu non paghi la tassa. Da un anno a questa parte, non vende nessuno le macchine automatiche. Giuseppe, allora, devi stare tranquillo. Allora, tra il 2000 e il 2012, l'ammontare dei tributi dovuti dai siciliani per il possesso dei loro veicoli è di un miliardo e passa. Sono stati riscossi solamente 169.000 euro, meno del 12% del totale, ma non è che lo dice Libero, ci sono delle statistiche ufficiali che sono venute fuori dalla Sicilia stessa. Questa è la realtà dei fatti, cioè, la realtà è questa. No, ma è la realtà. No, ma la realtà, ma non è un'assurdità, è la realtà. Non è il 12%. Non le pagate, non le pagate, non le pagate, non le pagate, non le pagate. E questo è il punto. E nessuno prova a riscuoterle. Se nessuno prova a riscuoterle, è chiaro che la gente non le paga, no? Ma è molto semplice. Domenico Varese, vai. Pronto? Dimmi. Sì, ciao. Niente, io sono di Palermo. Abito a Varese, però ti posso confermare che a Palermo sono in pochi quelli che pagano bollo assicurazione. A me te lo dici, cioè in che senso? Perché me lo vuoi confermare? Che prove hai? No, che ho sentito delle persone siciliane che dicono che è improbabile questa cosa qua, ma invece è una cosa che se tu vivi a Palermo, cioè, sai che praticamente non le paga nessuno. Cioè, se tu a Palermo fai un incidente in auto, sì. Se tu ti devi fare il segno della croce, che quello che ti ha fatto l'incidente c'ha l'assicurazione. Vabbè, ma l'assicurazione è un altro discorso, stiamo parlando del bollo adesso. L'assicurazione... Sì, vabbè, il bollo, l'assicurazione secondo me è ancora più grave del bollo. Però sì, il bollo comunque non... No, ma il fatto è che poi lo paghiamo noi, tutto il resto dell'Italia paga questa roba qua, perché poi battono cassa, battono il governo della Sicilia, batte cassa. Questo, certo, è il punto. Sono comunque... Non c'è niente da fare. Per risolvere la Sicilia ci vuole un commissariamento, un generalissimo, una specie di dittatore per 50 anni per risolvere il problema. Non c'è niente da fare. Secondo me dovrebbero togliere la... come si dice? L'autonomia, sì. L'autonomia, vabbè, certo. Sì. Franco, provincia di Agrigento, 800 24 00 24. Vai, Franco. Franco? Sì, pronto? Sì, dimmi, Franco, dimmi. Allora, sento Cruciani, io non mi sono incazzato con lei perché ha aperto la traduzione dicendo che i siciliani non pagano il bollo auto, e neppure con il giornale che ha pubblicato queste notizie. Io mi incazzo con quei bastardi che fanno le leggi, che non tengono conto delle leggi che loro stessi fanno. Guarda, io qui davanti a me l'articolo 53 della Costituzione. No, ma tu lo paghi il bollo o no? Lo paghi il bollo o no? No, scusa un attimo, aspetta. Ma che me ne frega della Costituzione del 53? Ma aspetta un attimo. Allora, dice così: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, vabbè, allora... in ragione della loro capacità contributiva. Allora... Capisci che significa? Significa che la gente che non paga il bollo, ce ne sono tantissimi che non lo pagano, perché non possono pagare. E allora non ci comprano la macchina, però, amico mio. Allora non ci... A te è libero e a quei bastardi che fanno le leggi di tenere conto della capacità contributiva dei cittadini. Beh, sì, vabbè, uno dice non posso pagare, non pago. Dove stiamo? Una pressione fiscale in Italia, che lo dite voi stessi, che è la più alta del mondo. Quindi ma scusami, ma scusa, però, cioè, anche uno, in Veneto ci sarà qualcuno che non può pagare il bollo e pure lo paga. Ma dai, ragazzi, ma questa è la mentalità, capito? Da Agrigento. Io il bollo l'ho pagato. Tu l'hai pagato? No, ma ti dico, anche in Veneto qualcuno che fa fatica a pagare il bollo ci sarà. Va bene, lo paga. Stefano da Catania, vai Stefano. Stefano, no. dimmi sì, Stefano. Andretta, sì, va bene, guardi, sono telefonato da Catania, in effetti, sì. Per il discorso bollo auto. Guardi, in effetti credo che il giornale abbia ragione. Beh, certo, ha ragione, non è che il giornale prende dei Sicilia, dati. Qui in Sicilia chi paga viene considerato un po' un fesso. Viene considerato un coglione, chi paga? Ma sì, questa è la mentalità, non c'è niente. Cioè, gli arretrati, e controlli molto rari. Ma certo che sono, magari era così fino al 2012, c'è un miliardo di arretrato, con un cazzo di miliardo di euro, non ci sarebbe bisogno che il governatore, faraone, gente del Partito Democratico chiede soldi allo Stato. Sotto, dai, che mi dispiace dirlo, ce n'è qualcuno che ancora resistiamo, lo sappiamo perfettamente, qui tutti sappiamo come funziona, chi paga è un cretino, nessuno è così. Allora guarda, controlli rarissimi. Fatta una cosa di questo tipo a questo punto, no? Visto che c'è questa evasione conclamata, è circa un milione di euro, no? Quello che l'ha stato avanti. Un miliardo, che è un milione? Un miliardo. Un milione, che ce fai? Todo io un milione. Un miliardo di euro di evasione, no? Sì. Bene, moratoria assoluta, lo Stato non chiede e usa tutti questi soldi per l'accoglienza dei migranti al sud. Ma che cazzo c'entra questo, scusa, non ho capito. Non li chiede, lo Stato dice vabbè, lì non lo pagano. Quei soldi che non sono entrati nelle casse dello Stato vengono utilizzati con tutta questa cifra, non ve le chiediamo indietro, per l'accoglienza dei migranti. Ma cosa c'entra? Cioè mandiamo in Sicilia i migranti apposta, non ho capito, la ritorsione è mandare i migranti in Sicilia? No, che ritorsione, arrivano, vengono usati per creare delle strutture adatte per costruire. Ma se non ci sono, ma che ti stai parlando? Per costruire dei centri per questi soldi. Vabbè, che Luca lo Stato... da Firenze, dai, Luca da Firenze. Bellissimo. Ma non ho capito il collegamento, comunque dopo me lo spieghi. No. Luca da Firenze. No, ma non è difficile. Ma se non ci sono i soldi, che li utilizzi per gli immigrati? Non lo ho capito. Stato avrebbe, questi soldi qui sono soldi che lo Stato avrebbe dovuto incassare, giusto? No, lo Stato, la Sicilia. Vabbè, sì, che allora? È la Sicilia, certo. Allora? Allora la Sicilia, quindi lo Stato, si impegni a utilizzare questi soldi che non ha incassato, che non ha, per fare costruire delle strutture. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente. Ma se non ce li ha, perché deve impiegarne altri per cose che magari non servono? Anziché Luca da Firenze. Seguire questi qui che tanto non pagheranno mai? Ma non c'entrano niente, stai facendo dei collegamenti assurdi. È una provocazione, ma non c'è nessuna provocazione, non è manco una provocazione. Aspetta, fermo là che... Ma non lo so, non ho capito, borsa. Ma c'hai dei problemi, Cruciani? A Crociate hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Facciamo un tentativo, squilla il telefono, eh? Tutto in diretta, fermi. Dai, rispondi, su. Ma il comandante? No, che comandante? Dai, forza Sicilia! La Merkel in Sicilia, la Troica in Sicilia, il commissariamento, cancelliamo tutto, autonomia, tutto cancellato. Ci vuole come il generale Mori durante il fascismo. Mica perché sono fascista, così. Basta con questa roba, un miliardo non pagato per il bollo auto, ma di che parliamo, dai. Adesso comincio a chiamare siciliani a caso, facendo finta di essere il tesoro, eh. Allora, eravamo con Luca da Firenze, vai Luca. Ciao, sera. Dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao, senti, io venerdì ho sentito questo intervento di un conducente, diceva per mantenersi sveglio si faceva una pippa alla guida. Giusto? Sì. E mi è capitato proprio nelle ultime settimane, ho conosciuto questo camionista mio, di un'amica di Roma. Sì, un camionista, sì. Sì, lui diceva, insomma, abbiamo passato la strada insieme in tutti quanti, nel momento in cui sarei lui mi è arrivato e cioè aveva delle attenzioni, no, per me un po' più, notavo un po' di più degli altri. Dopo quello ho dato un po' la cantonata, mi ha rivelato che lui, come anche altri camionisti, sì, per, in tragitti, quando si trovava tragitti un po' più lunghi, per mantenersi attivi, diciamo, masturbavano tutto il tempo. Sì, però bisogna che tu parli un po' italiano e non ti mangi le parole. Scusa, sono di Firenze, scusa. Non no, no, per carità, cioè, aspetta, aspetta un attimo. Pronto? Sì, signorina? Sì, lei che? Sì, buonasera, qui il tesoro. Mi risulta che lei non paga il bollo auto. Io non pago il bollo auto? Sì. Io ho una macchina da 52.000 euro, pago 400 euro l'anno di bollo, quindi mi sembra un po' strano. Lei è sicuro? Ma a bollo, sì, a nome di chi? No, mi scusi, questo è il Ministero del Tesoro. Il bollo auto dei siciliani lo paga il resto d'Italia, oltre 1 miliardo di euro. Lei, scusi, sì, ha una macchina? A nome, siccome in questa strada ci stanno parecchie famiglie zine, a nome di chi è intestata l'auto e che auto è? Bernardo. Bernardo, sì, anno... Ah no, non mi risulta qua davanti al telefono. E allora, io sono il figlio praticamente. Sì, sì. Ma lo paga sto bollo o non lo paga? Mio padre non possiede alcuna macchina, la possiedo solo io e mia mamma. Ma c'è un'auto intestata a Bernardo? No. Vabbè, ma lasciamo allora, perdere, allora... lo pagate il bollo o non lo pagate sto cazzo di bollo? Io lo pago il bollo. Sicuro, eh? Sicuro, sì, possiamo... Sì, se vuole possiamo anche chiamare chi vuole lei. Ma arretrati li ha pagati o no? Allora, io la macchina che ce l'ho da 2 anni e i bolli sono tutti pagati. Mio padre, tutti pagati. Allora, se lei mi dice la data di nascita di questo Bernardosino, io gli dico subito se è mio padre o non è mio padre. Glielo posso dire pure io la data. 1900, aspetti un attimo che controllo qui il tabulato. 11-11-50 è mio padre. 11-11-50, eccolo qui. 11-11, e che macchina è? Mi sembra una BMW. BMW, allora è impossibile. Impossibile, impossibile. Comunque a noi risulta che un sacco di siciliani non pagano il bollo auto, eh? C'è un'evasione di 1 miliardo di euro. Stiamo facendo un controllo a tappeto. Li viene cercata, no, amico mio, stiamo facendo un controllo a tappeto. Che dobbiamo fare? No. Comunque vabbè, se lei vuole approfondire il discorso su Rina Bernardo 11-11-50, però sul proprietario di BMW lo può fare. BMW, ma lei lì a Corleone la gente paga il bollo o non lo paga secondo lei? Così, allora io per conto mio il bollo lo pago. Tu perché sì. Una volta mi è lei risultato, sì, allora a me una volta è risultato che per non pagare 2 bolli poi mi sono arrivati l'equivalente di 4 bolle e l'ho dovuto pagare. Per forza, certo. Però lo e lì a Corleone com'è la situazione? Lì a Corleone? Ma non lo so, a me non mi interessa, io guardo solo la mia. Vabbè, ma guardi che ormai bisogna fare anche le delazioni nel campo fiscale, bisogna denunciare anche le altre persone. Ormai qui la musica è cambiata, amico mio. Questo è il problema, che qui siamo tutti uno più pecoroni di un altro, ma non solo in Sicilia, in tutta Italia, perché noi ci lamentiamo, parliamo. Sì. Però i primi tutti gli italiani ci facciamo fregare i soldi dai politici. Quindi se lei cerca i soldi da noi è impossibile che... Comunque guardi, qui la situazione è abbastanza perché chiara. Perché a me non va nemmeno che pago 500 euro di bollo l'anno e certe persone non pagano nemmeno l'assicurazione, capito? Ma chi non la paga l'assicurazione, scusami? Chi non la paga, io non lo so, però ci risulta che certe volte magari si può rivelare pure che manco pagano l'assicurazione. Beh, guardi, l'evasione in Sicilia è pazzesca, 1 miliardo di euro non riscosso per il bollo auto, comunque. Sì, ma anche su in Veneto, perché io sono stato in Veneto. No, in Veneto la gente lo paga più o meno, dai, risulta dai dati. No, assolutamente. Comunque, voi siete tutti... Io sono stato 3 anni. Voi siete a posto. Ho conosciuto ragazzi che camminano con la macchina senza assicurata da 2 o più anni. Si lasci fidare di me. Comunque, guardi, voi siete tutti a posto, risulta tutto a posto. Evidentemente sta macchina qua sarà stata venduta. Ma lei da dove telefona? Dal Ministero del Tesoro, da Roma. Dal Ministero di Roma? Può mandare un suo delegato a Corleone qui nella famiglia Zina? Delegato adesso, manderemo uno da Palermo. Allora se le telefono dall'Agenzia delle Entrate di Roma e non ho un delegato in Sicilia, allora mi scusi, io sto staccando perché non lo conosco. Vabbè, arrivederci. Allora, Luca da Firenze, questo sì, è uno dei pochi siciliani che paga. Comunque, il dato è sull'arretrato, È un po' fresciato su questo argomento. Comunque, dai, dimmi. No, ma qual era la storia del camionista? Non ho capito. Che ho ritrovato questa storia del mantenersi sveglio alla guida, al volante. Oh, si manteneva sveglio masturbandosi. Esatto. E dice, poi andò poi alla stazione dove fermano loro per la sosta. Spesso per non sporcare, mi ha detto così, magari si accontentavano pure, sarebbe andato bene chiunque, si accontentavano pure del socio. Ma non ho capito una cosa, questo racconto ma lei come per carità, un racconto interessante anche, ma come fa ad avere questi dettagli? Evidentemente questo camionista ha raccontato che per mantenersi sveglio durante il suo tragitto si masturba, giusto Luca? Sì, ma siccome io sono gay, no, la mia idea è questa. Tu sei gay? Sì. Sei gay? Vabbè, non c'è niente di strano essere gay, per carità. Anzi, che c'entra? No, penso che abbia ricercato. Sono fratelli. Di quella sosta, insomma. Ovviamente non ci sono stato, però lui poi mi ha detto, mi ha raccontato la sua storia. Ma tu sei. Anche tu vai nelle piazzole? Anche tu vai nelle piazzole? No, era una. Ci l'ha presentato questa mia, è di Firenze, lei andava a fare l'Erasmus a Roma e aveva conosciuto gente lì. Ma io non ho capito il senso, Parezzo, tu hai capito il senso di questa telefonia? Io non ho capito né che relazione c'è tra questo signore e il camionista. Cosa che viene fatto da diversi camionisti, ragazzi. Cioè, ci sta dicendo, Luca, forse era in relazione a quella vicenda della sigaretta, Esatto. La sigaretta in macchina. Sta dicendo, Luca, tra parentesi, che si è dichiarato gay. Ma questo non c'entra. Ma per spiegare perché questo camionista mi ha rivelato un dettaglio così, comunque non proprio. Oppure il camionista era gay? Ma è lei che ha sentito il bisogno di raccontarcelo? No, per dire che si mantiene sentivo, perché non vorrei, ora io non ho dati né niente, però per capire se questo lo può essere, può provocare anche incidenti, ragazzi. Ma beh, potrebbe provocare, adesso questo nel dettaglio non è previsto dal codice della strada, questo particolare. No, però vuole dire, Luca, non ho capito cosa che vuole la dire. Masturbazione dei camionisti per rimanere svegli, secondo lui, potrebbe provocare. Giudico, però voglio dire, nel senso, ragazzi, attenti, voglio dire. Ma anche il camionista che te l'ha raccontato era gay? A questo punto sì. A questo punto, l'avevo già capito allora, però non si rivelava del tutto, ma raccontavo, andavo anche nel dettaglio, quindi. Ma tu vai nelle piazzole? No, ce l'ho presentato a una mia una sera e si rimase io e lui a un certo punto, in un momento in cui si era da soli, mi faceva questa confidenza. Vabbè. Chiaramente poi me ne andai, però è per cioè, mi è venuto da pensare in modo un po' più ampio, e se questo però comprendesse una larga parte dei camionisti, se lo facessero molti camionisti. Marcello da Milano, buonasera Marcello. Buonasera, dimmi. Sì, ciao. Vai dimmi. Ascolta, io, visto che tanti dicono cazzate, voglio dire anch'io, ovvero ho una ricettina che secondo me potrebbe anche essere mettere d'accordo te e anche dai. Allora, abbiamo praticamente uno stato, lo spazio che è la Libia, giusto? Sì. Da lì ci arriva un po' un flusso di immigrati da gestire, sì, che fondamentalmente sono persone oneste fino a prova contraria, giusto? Allora abbiamo invece un sovraffollamento delle carceri, e la ricetta potrebbe essere: ok, facciamo uno scambio merce, noi gli diamo i nostri detenuti in Libia, dove si fanno una vita, dove possono fare tipo l'Australia, ricominciare. Cioè, portare tutti i nostri detenuti in Libia per ricostruire la Libia. Tutti i detenuti d'Europa. Guarda che non è una cazzata, Parenzo. Potrebbe essere per carità, è una cosa molto intelligente che ha detto. Potrebbe essere buona, ma non deve fare un nuovo Stato, l'Eurafrica, gestito dall'Europa. Beh, Marcello, è inattuabile questa cosa, non si farà mai, però. Meno male. Però portare tutti i detenuti in Libia come se fosse l'Australia. Beh, ogni tanto escono fuori delle bizzarrie, però non è così assurda l'idea. Ricostruire la Libia grazie ai detenuti. È vero che ormai le mani servono a poco, Marcello, servono altre cose per ricostruire un paese, non siamo più nell'Australia di un tempo. Però. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Allora, è con noi un signore, caro Parenzo, che è diventato nel tempo un tuo nemico acerrimo, però pare che in un albergo lo abbiano considerato indesiderato. Nella civilissima cortina, posto che tornerò a frequentare. Forse c'è però un ripensamento nell'ultima ora, da quello che... Cioè, un albergo di Cortina, dove ospitare la presentazione di un libro di Carlo Giovanardi. Si chiama Balle il libro. Libro si chiama Balle, un libro che tratta di vari argomenti. Omen nomen, diciamo, chissà come mai. Dai, non dire cazzate, dai, non cominciare, dai. È un libro che racconta la versione di Giovanardi su diversi argomenti della vita politica italiana. Doveva essere presentato, comunque la si pensi, in un albergo, credo il Miramare a Cortina. Alcuni clienti di questo albergo hanno fatto Miramare, non credo, no, Miramonti, come diavolo si chiama, Miramonti. Miramonti. Sì, Miramonti. Che cosa è successo? È successo che hanno protestato, ecco. Il direttore dell'albergo ha annullato, forse ci ha ripensato. Giovanardi, che è successo? Vai a presentare Carlo questo libro oppure no? Beh, è arrivato con 24 ore di ritardo, complimenti. Noi siamo molto indietro rispetto a queste cose, che è successo? Mi sembra proprio di sì, perché la cosa si è chiusa ieri. Cioè? Ma, per la verità, non andavo a presentare il mio libro, ci va Belpietro, ci va Nordio, è una di quelle cose a Cortina dopo una ventina di... libri vengono presentati, c'era anche il mio. La giornalista che cura questa rassegna ha comunicato appunto con un'email che proprio per questa eventuale protesta di qualcuno dei clienti, non si sa bene chi e non si sa bene la rappresentanza di chi, la cosa veniva annullata, ma dopo un'ora ha telefonato la proprietaria dell'albergo scusandosi, dicendo che anzi, però scusami, ottimi rapporti, che la cosa è confermata. Cioè, la cosa è confermata. Due minuti fa, tre ore fa, un altro tuo acerrimo nemico, Fabio Canino, uno che omosessuale, che fa sempre battaglie sulle coppie gay, eccetera, dice: ospite non gradito, Giovanardi respinto dall'hotel Miramonte di Cortina, gioia infinita. Molti hanno esultato, Parenzo stesso, tra l'altro. No, dobbiamo vedere in tribunale, quindi esulterà in tribunale se è il caso. Certo, noto, ma anche lì magari sarà. Ma detto questo, hai esultato. Questo, credo hai esultato. L'odio si è risolto in due ore, però faccio notare che se effettivamente qualche cliente di quell'albergo, che magari ha le sue idee diverse dalle mie, avesse veramente intimidito il titolare dell'albergo, facendo una specie di boicottaggio, intimidito dicendo no, se viene lui o se viene qualcuno che ha idee diverse dalle mie, noi dissettiamo. Nel momento in cui vengono presentati libri 5, 7, 8, 20 persone, la presentazione dei libri serve proprio per dibattere. Ma quello è chiaro. Tra idee diverse. Ma infatti non capisco perché, Parenzo, tu hai tra l'altro ritwittato una cosa, insomma, hai gioito pure te per questa cosa. Beh, intanto i libri vanno sempre presentati, quindi figuriamoci. E allora perché hai esultato? La civilissima Cortina, hai detto prima, ti dico di più, l'ho detta come battuta ovviamente. Ma non è una battuta? Era una battuta ovviamente, in questo caso, altre volte non ho fatto battute con Giovanardi, ma questa volta era veramente una battuta, perché io capisco magari qualche ospite dell'albergo che essendo un posto privato, cioè non è un posto pubblico, è un posto privato, qualcuno dell'albergo dice oh cazzo no, Giovanardi no, e magari protesta e il titolare dice no. Quindi è legittimo, io non l'avrei mai fatto, perché anzi io sarei andato lì ad ascoltarlo e magari avrei controbattuto, figuriamoci. No, se... per la verità ha detto sì, quindi l'equivoco è stato risolto. No, ma va benissimo, figuriamoci se adesso il libro di Giovanardi, Balle, è una cosa che tra l'altro leggerò proprio perché mi interessa. Ma chiunque abbia fatto presente al direttore di un albergo che il libro di Giovanardi gli dava fastidio, è un coglione, diciamo ma la verità. Sì, d'accordo, certo. Basta, molto semplice, è un coglione. Questo d'accordo, ma figuriamoci se un libro non deve essere presentato. Ma ha sbagliato il direttore di un albergo per qualche ora a dare retta a qualche coglione che non voleva la presentazione del libro di Giovanardi in un albergo, ma di che parliamo, ragazzi? Su, uno può anche non sopportare una persona, mica Hitler Giovanardi, cioè non è che ha fatto delle... Ma cioè, forse uno si sarebbe divertito a leggere appunto le balle cosmiche che stanno intossicando la vita pubblica italiana, ripetute dal giornalismo collettivo come tanti pappagalli, che non vanno mai a vedere le cose che raccontano. Vabbè, ma quello è un altro discorso, però si entra nel merito, è un'altra cosa. No, quella. Appunto dico bene che il confronto è bello. Ma quello è normale, infatti mi stupisco come qualcuno. Che viene applicata. Ma infatti mi stupisco come qualcuno abbia dato retta a qualche cretino di questo ospite di questo albergo. Ma è legittimo che anche uno dell'albergo dica. Ma legittimo di che? Ma vai a farti la tua vacanza e non rompere i coglioni, no? Perché la sala di quell'albergo è messo a disposizione 7, 8, ma 10, sì, 15 dai, autori, su, ragazzi, dai, che insomma, durante l'estate vanno a presentare il loro, poi ma dai, quelli che hanno detto, infatti, poi l'errore più grande è farlo passare come un martire, questo è l'errore più clamoroso. No, che ma quelli che fare, dicono come l'amico Fabio Canino, gioia infinita perché hanno cacciato, ma avrà fatto una battuta anche lui, ma no, ma chi gliene frega, persona intelligente Canino, figurati se gli interessa di Giovanardi, persona intelligente. Beh, allora perché ha scritto gioia infinita, perché Giovanardi, perché è stato, ha fatto una battuta sarcastica, ma non è una, quando sono così sono battute sarcastiche secondo te, guarda che incredibile, non c'è nulla di grave, mi pare, è una cosa che per fortuna si è risolta bene, perché il libro, per fortuna, e lo dico senza alcuna ironia, veramente, secondo te Giovanardi dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Aldrovandi che ha ritirato la guerra nei suoi confronti, Parenzo? Ecco, questo è un altro tema, questo, vabbè, è molto serio, credo, e mi dispiace che non l'abbia già fatto, peraltro la famiglia, cioè, il signor Aldrovandi è venuto in Senato, molto grave, campagna, che non l'abbia fatto subito, ha fatto una conferenza stampa dopo aver detto agli avvocati 10 giorni prima che sommessamente, sobriamente, in gran segreto, aver ritirato le querele, finora non ha ritirato nulla. Beh, comunque, però è venuto in Senato a dirlo, vabbè, questo aspetto di vedere che cosa hanno annunciato questa cosa, e la faranno, perché sono persone molto serie e dignitose, con grande dignità, quella famiglia ha mostrato grandissima dignità, a differenza di altri, grandissima dignità, e di fronte a un rappresentante dello Stato, qual è lei, perché lei è un rappresentante dello Stato, allora, uno delle istituzioni, dovrebbe chiedere scusa o no? La prima avrebbe dovuto già farlo, quindi è già in ritardo. No, però io sto difendendo, come noto, ma ne parleremo poi con calma alla fine, quando avremmo risolto questa questione. Io difendo la sentenza, io difendo quello che hanno fatto i giudici. No, lei deve difendere i cittadini. No, io difendo, no, addirittura io non so, chiedere scusa a una famiglia che ha subito molto. Aspetta. Difendo anche i magistrati, è quello che hanno scritto. Poi, se leggete il libro Balle, anche in questo caso c'è una verità giudiziaria, e cioè sono balle cosmiche che girano, leggende metropolitane, che non hanno nulla a che fare con il processo, però questo è un paese in cui, invece che andare a vedere le cose come sono state, c'è sempre, vabbè, il circuito del giornalismo. Però scusami, Carlo, voglio capire una cosa. Che non stanno né in cielo né in terra. Devi chiedere scusa alla famiglia Aldrovandi o no? A Patrizia Aldrovandi o no? Non ho mai detto nulla di offensivo, e quindi non devo chiedere scusa a nessuno. Loro si sono giustamente sentiti offesi per le parole che lei in questi anni ha pronunciato. Allora, loro si sono sentiti offesi, hanno fatto querela. Loro hanno deciso, sono venuti al Senato con grande pubblicità e hanno detto che ritirano la querela. Pubblicità? Ne prendo atto quando l'hanno data, ne prendo atto adesso che la ritirano. No, però bisogna dire una cosa. Se uno è convinto che Giovanardi abbia come dire, offeso con la storia del cuscino, che non è sangue dietro il cuscino e altre cose ancora, uno va fino in fondo però, io sono convinto di questo, ti ritieni offeso, vai fino in fondo, non è che a un certo punto dici no, la famiglia ha detto un'altra cosa, che non vuole più sentire parlare troppo, non vuole neanche più sentire pronunciare la parola Giovanardi, quindi hanno detto, quindi questo con grande dignità hanno detto basta. Ti sei sentito offeso, Carlo, da questa cosa che ha detto Patrizia Aldrovandi? Loro sono offesi, che lui, no, ma che se uno dice non voglio più sentire la parola, ma è legittimo, ma scusa, ma qui si rivolta alla frittata, che roba. Allora, è? Io continuo a dire, e lo ripeto, c'è una vittima di questa vicenda, che è il ragazzo che ha perso la vita. Meno male. Quindi sono 4 poliziotti che sono finiti in galera e hanno fatto 6 mesi di galera, e la Cassazione ha detto non dovevano farla perché era illegittima detenzione. Vittime pure loro. Poi devono pagare 2 milioni di euro perché il risarcimento dato alla signora Aldrovandi, adesso la chiedono ai 4 poliziotti. Vittime pure 2 loro. 2 milioni di euro. Vittime. Poi fino a ieri c'era in corso un'iniziativa sempre della signora per radiarli anche dalla polizia. E dico che poiché la sentenza passata in giudicato dice che semplicemente per imperizia lo hanno tenuto in una posizione per terra in cui, tenendolo a pancia in giù, poteva rischiare l'infarto. C'è omicidio colposo. Dico che anche loro, che si sono rovinati la vita, che sono finiti in galera, che devono pagare 2 milioni di euro, fra cui una scritturina alta 1,50 m di una poliziotta che era lì, che all'episodio, posso dire che ritengo quelli che hanno partecipato a questa vicenda incredibile sono tutti vittime perché sono rovinate la vita. Beh, io la penso non sono vittime allo stesso modo, però. È quello. Meno male. Ho detto che sono vittime anche loro, perché il mio omicidio colposo. Ma vittima può di capitare che? A chiunque che faccia il poliziotto. Cioè, come fare un incidente in macchina? Sì. Può capitare, infatti io ho fatto tirare via, con la mia iniziativa lo sapete, che uno si facesse 18 anni di galera, perché... Cioè, come fare un incidente in macchina? Non vedi il semaforo rosso, può capitare a tutti con la nebbia di pigliare una strada in senso vietato, cioè, c'era scritto fino all'aula che se la madre di famiglia che porta i bambini a scuola, o la gente no, vabbè, adesso non andiamo su un'altra cosa. Così, si faceva fino a 18 anni che di carcere. No, dunque, allora una cosa è guidare la situazione di Aldrovandi è come, diciamo, paragonabile a un incidente in macchina, omicidio colposo, uguale. Beh, secondo i giudici, secondo i giudici, secondo i giudici. È scritto nella sentenza. Allora, fermi tutti che c'è la pubblicità, poi torniamo. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. La Zanzara. risolto il mistero, Giovanardi presenterà il suo libro a Cortina. Abbiamo con noi Carlo Giovanardi. Il Corriere sta rifacendo la prima pagina. Ma il Corriere dai, della Sera. Su, da, come sì, al solito. Sta rifacendo la prima. Io non ho capito perché tu ti sei fissato su questa cosa del chiedere scusa. Giovanardi, pensa di non dover chiedere scusa per la storia del cuscino. Perché Giovanardi per tanti motivi. Ma la storia del sangue, poi com'era la storia del sangue del cuscino? Non ho capito perché non devi chiedere scusa. Hai ragione tu su quella roba, Carlo? No, guarda che non intendo assolutamente rifare il processo qua e rinvagare queste no, cose. No, non è mai stato fatto il processo. Dico soltanto una cosa. Quando Priete davanti a Palazzo Chigi ha sparato e ha lasciato per tutta la vita un carabiniere con una sedia a rotelle, i colleghi dei carabinieri sono saltati addosso. E se andate a vedere le foto, Priete per terra, faccia in giù, con un carabiniere a cavalcioni che gli mette le manette dietro la schiena, mamma, con lui che si lamenta perché mamma viene schiacciato. Allora, se quello avesse fatto l'infarto, quei carabinieri sarebbero stati condannati per omicidio colposo. Cioè tu stai dicendo che alla fine Aldrovandi allora, è stato ucciso non dallo Stato, no, non è stato ucciso dallo Stato. Che la sentenza passata in giudicato dice che la condanna dei quattro poliziotti è perché per imprudenza e negligenza l'hanno tenuto in una posizione esattamente come quella di Priete. Io non capisco perché in giù, e quindi ed è sbagliata la condanna per omicidio colposo. Ed è sbagliata la condanna o no, secondo te? Ma è eccessiva la sentenza o no? No, io la rispetto assolutamente. Sì, ma la ritiene eccessiva? La ritiene eccessiva? Se andate nei siti, invece, ma sono quelli che contestano la sentenza perché dicono che è stato ammazzato di botte. Lei, se non altro, in tutti i siti troverà scritto che Aldrovandi è stato ammazzato di botte dappertutto. Mentre nella sentenza passata in giudicato, che io rispetto, hanno detto no. Sì, e tu la rispetti, però pensi negligenti perché l'hanno tenuto in una posizione. Ma tu pensi invece che sia eccessiva? Come quella d'accordo. Di Priete. Tu pensi quindi che io difendo la sentenza, quindi non ho ancora ma capito. Ma però la bene. Consideri eccessiva perché la condanna. Ho detto che la rispetto, poi dico a tutti i cittadini come me. Che quando un drogato, un ubriaco, uno stupratore, un rapinatore, uno che gira col coltello, col martello, no, viene affrontato dai poliziotti e dai carabinieri. E i poliziotti e i carabinieri dopo una colluttazione lo bloccano per terra, lo bloccano per terra. Mi dispiace che quelli che vengono a difendermi, che sarebbero volentieri a casa loro, se succede un fatto di questo genere, debbano finire in carcere. Ma queste cose è venuto a dirlo il capo della polizia, il comandante dei carabinieri, il comandante del DAP in commissione giustizia al Senato, dicendo che col testo della tortura che era passata alla Camera non erano più in grado di tenere nell'ordine pubblico. Però voglio chiederti una cosa, Carlo. Il punto era uno solo. Carlo, voglio chiederti una cosa. Aspetta un attimo. Voglio chiederti una cosa. Giovanardi avrebbe avuto l'occasione. Una cosa sono le questioni dolose. Una cosa sono le questioni dolose. Carlo, un attimo solo. Allora io voglio capire se Aldrovandi è stato ucciso dallo Stato, secondo te, o da se stesso? Dammi una risposta chiara. Dallo Stato. La sentenza lo dice. Sì, ma i poliziotti incautamente, con negligenza e con imperizia, secondo la sentenza, l'hanno tenuto in una posizione che non lo dovevano tenere. Basta, tutto qui. Ma però è stato ucciso anche da se stesso, dalle sue escandescenze, dalla. Guardi, nella storia di tutte le persone, il ponte di San Luis Rey. Ci sono sempre situazioni nelle quali uno si trova alle 4 del mattino, magari aveva bevuto, magari c'erano tracce di droga, ma lui è una vittima di questa situazione. E certamente i poliziotti, quando sono stati chiamati, mica pensavano, non hanno operato dolosamente per rovinare la vita di questa ragazza, rovinare la vita di Parenzo. Non ho capito che vuoi dire. È un episodio dolorosissimo, dolorosissimo. Sì, aspetta, Parenzo, io continuo a dirlo, l'ho detto in Parlamento quando ero ministro, continuo a dirlo adesso. Non volevo, e non vedo perché questi siano ragionamenti che debbano portare a querele o a situazioni di questo che genere. È successo? Dimmi Parenzo. Non volevo questa sera continuare a sentire il 14 luglio i soliti gargarismi, ricostruzioni, gargarismi. Gargarismi. Allora torno a dire a Parenzo, gargarismi. Scusa, gargarismi non è un'ultima una volta a gargarismi. Voi mi cercate, mi chiedete di venire in gargarismi, perché gargarismi? Non è dire gargarismi? Ma è sbagliato gargarismi, dai. Io non vengo qua per è sbagliato gargarismi. Ma vai. Non vengo per essere insultato. No, ma chiaro, chiaro. Poi quando questi, sarà in tribunale vedere. Spiegherà il signor Parenzo le sue battute e le sue offese. No, no, io no, sto cercando nessuno. Di fare ho ragionamenti detto, seri, non capisco che in un paese come l'Italia no, fare ragionamenti seri, come che io, è difficile. No. Però cambiamo argomento. No, ma scusami, fammi dire una cosa, però non sì, è possibile. Sullo sfondo invece si limita a insultare. Ma rispondo io a domande che fate voi. Voi mi fate le domande e io vi rispondo. Vabbè, fermi tutti, sono cortese. Che lei ha perso, ho detto semplicemente che lei ha perso un'altra occasione in cui avrebbe potuto chiedere scusa alla famiglia. Ma se non vuole chiedere scusa, non chiede scusa. Certo, nel corso di questi anni, perché ha perso una persona, lei da rappresentante delle istituzioni dello Stato, da senatore. Ma se non si sente colpevole di nulla, ma perché dovrebbe chiedere scusa? Non ho capito. Tutto quello che ha detto, ma se non si chiede gargarismi, perché la parola arriva. Ma uno pensa alla sua idea su quello che è successo, su quello che deve fare la polizia. Ma perché non può dire cosa pensa? Ma, così. Ma se sta dicendo allora, che sentite gli italiani e chiedete alla maggioranza degli italiani se queste cose la pensa come me o come la pensa. Vabbè. Andatevi a spiegare perché Salvini ha il 14% dei voti. Posso chiedere a Giovanardi se il Papa col crocifisso e la falce e martello gli ha fatto orrore o gli ha fatto schifo come a Salvini? No. Sinceramente non mi è piaciuto perché ho pensato in quel momento, anche certo, il Papa in Polonia, in Lituania, ma nei paesi ex sovietici, che cosa la gente possa avere pensato e che tipo di reazione possa aver avuto. Giovanardi contro il Papa anche, vabbè. Non sono contro il Papa. Mi ha detto che non gli è piaciuta questa roba. Il fatto di aver in qualche modo apprezzato quel tipo di Giovanardi cultura, che regalo mi dispiace perché penso in tanti paesi d'Europa e del mondo anche le questo. Persone che hanno subito le persecuzioni in nome di quella faccia e il martello in qualche modo non abbiano ritenuto una cosa positiva. Guarda che è incredibile, cioè il comunismo ha fatto un sacco di morti e il Papa non può dire. Ma cosa c'entra? Allora, ma guarda che Antonio Socci ha scritto che c'entra Antonio Socci. Se avessero regalato un Cristo su una svastica, e non è che il comunismo abbia fatto meno di Hitler, hanno coscienza tutti decine di milioni di morti, credo che se qualcuno avesse regalato al Papa un crocifisso su una svastica, dando alla svastica un'accezione positiva, sarebbe stato un gesto. Quello di Morales lo ritengo inqualificabile, fra altre cose è un capo di Stato. Vabbè, è inqualificabile, quello fa gli affari suoi, è il Papa che l'ha accettato. Quando gliel'ha dato, un'opera d'arte. Era anche difficile, lui all'inizio ha detto questo non è buono, non è una cosa buona, ha detto, appena gliel'ha dato. Sì, probabilmente ci sono anche le regole della diplomazia. Vabbè, sto insegna Papa. Adesso Giovanardi insegna al Papa sto Papa mi sembra nulla, ma ha chiesto è divertente. L'episodio della falce e martello con il ma è un'opera d'arte. Io non la considero un'opera. Ma non è solo un'opera d'arte. Non lo so, ma neanche a me non piace. Non la considero d'opera d'arte. Poi se voi andate a fare un sondaggio in Polonia, vorrei sapere fra i cattolici polacchi, che sono cattolici seri, possono aver apprezzato quello che ha fatto Morales e se considerano il Papa, un'opera d'arte e se considerano un'opera d'arte. No, parli col Papa del Papa, non di Morales, del Papa. Gli è stata consegnata che doveva fare. Vabbè, l'ha portata pure in Vaticano. Lo mette in un deposito. Vabbè, comunque, non credo che la metterà in un deposito. Lo mette in un deposito. Allora, però il direttore del giornale Sallusti ha detto una cosa interessante sui gay. Uno Stato non deve tutelare l'amore, altrimenti perché non posso sposarmi con due donne o con il mio cane? Infatti, come avete visto, ha scritto il Corriere, ha scritto Repubblica, ha scritto il Messaggero. Lei è d'accordo con Sallusti? Sono d'accordo con il presidente dei nove della Corte Suprema, Roberts, che ha scritto la sua dissenting opinion, che è inevitabile che e la poligamia e quelle le tre donne che adesso stanno facendo ricorso alle corti perché vivono le tre donne assieme e gli animali no? È inevitabile, ha scritto, che secondo questo concetto, ma perché due? Ma perché tre non possono sposarsi in tre? Ma per quale motivo? L'amore, infatti vedrete che quando arriveranno alla Corte Suprema queste cose attraverso i tribunali, oggi c'era sul Corriere, secondo lei le coppie inevitabilmente dovranno riconoscerlo se questo è il principio. Cioè, secondo lei si passa il matrimonio dal matrimonio gay si passa direttamente alla poligamia, Non lo sto dicendo io, è quello che sta succedendo. No, ma è la sua opinione. Sul Corriere l'altra sera. Ho capito, ma la sua opinione è questa, la tua opinione? No, la mia opinione è che nel momento in cui stai dicendo che decide che le persone possono stare assieme per amore, non si vede perché il limite deve essere due. Dunque, ma lo dico io, l'ha scritto. Sì, ma capito, a me interessa quello che l'ha scritto Roberts, e io condivido quello che ha scritto il presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti. Nella sua opinione dissenziente ha scritto esattamente questo. Ma anche fossero non è l'ultimo due, che passa per strada. Ma anche naturalmente ha criticato due, anche la scena. Poi sapete, la mia opinione è nota. Io sono contrario all'utero in affitto, sono contrario alla fiera di Bruxelles fatta 20 giorni fa, dove 60.000 euro ti danno il bambino chiave in mano. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Le situazioni genetiche di chi vende l'ovocitri, di chi vende. Ho capito, ho capito. Vabbè, ho capito. Ma io posso essere contro la schiavitù? Ma i transessuali, che sono i Va bene, abbiamo capito. I transessuali che sono stati ammessi nell'esercito americano, ti fa piacere o no? Ma sinceramente non mi interessa nulla. Beh, anche in Italia, anche in Italia dovrebbe essere ammessi. Perché in Italia non ci potrebbe essere un trans nell'esercito? Ma guarda che nell'esercito ci può essere chiunque. No. Il problema è che cosa fa quando è nell'esercito. Cioè? Cosa fa? Se fa il soldato va benissimo. Cioè un gay nell'esercito disturba secondo te? Un gay nell'esercito, se per esempio, come ho detto più volte, ci sono situazioni che riguardano la disciplina. Voi sapete che nell'esercito americano che c'entra la disciplina? No, c'entra, perché nell'esercito americano è vietato uomini, donne, qualsiasi forma di rapporto tra i militari, perché vengono immediatamente congedati. Beh, quindi fuori dalle camerate però, fanno quello che gli pare. Ma perché i gay fuori hanno... dalle camerate nelle camerate, no, perché sono i gay, anche gli uomini e le donne quando fanno i militari. Ho capito, ma per io ti ho chiesto dei gay. I gay nell'esercito, secondo te, disturbano si l'ambiente? Devono comportare come gli altri. Vabbè, ok, ma disturbano o non disturbano? La questione si devono comportare. Ma quello è scontato che si debbano comportare correttamente. Si comportano correttamente come gli altri. Ma in generale, disturbano o non disturbano? Ma voi, nella vostra malattia e nella vostra perversione, che avete in testa solo questo, a me non me ne frega assolutamente nulla. Ah, vabbè. Se loro si comportano correttamente come gli uomini e le donne devono comportarsi correttamente, non c'è nessun problema. Va bene. Ma non è che il gay abbia più diritto di un altro. No, chi ha detto questo? Ciao Carlo, presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo a Parma. Daniele, 800 24 00 24, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Allora, guarda, io sono incazzato nero perché io non capisco perché le tasse si pagano solo al nord, il redditometro si paga solo al nord, ci sono solo al nord i controlli, poi parli con quello là, quel Burundi là in Sicilia, c'ha il BMW 53.000 euro, non paga il bollo. No, lo paga veramente, quello che ha detto. Dai, lascia stare, non lo paga nessuno. Ma molto bene, signori, un bel comunicato stampa, ok, Campania, Calabria e Sicilia, in vendita, signori, in vendita. Noi in Europa non valiamo un cazzo, va bene, benissimo, la troica a noi facciamo la troica dentro a noi stessi. Cosa vale il debito pubblico in Italia oggi? 2.200.000 miliardi? Benissimo, 1.500.000 miliardi in vendita a tre regioni. Punto e capo, noi ci mettiamo a posto, è vero o no? Beh, potrebbe anche essere, è una cosa complicata. Non è una buttata alla Guzzanti, lo diceva Borghezio una volta: vendere la Campania, vendere la Sicilia, vendere la Sardegna, vendere la Calabria, fermo lì. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Pronto? Sì, buonasera, qui è il tesoro da Roma. Qui manca il bollo auto. Avete pagato il bollo auto? Come? Avete pagato il bollo auto? Ma io non ce l'ho auto. No, qui c'è un signora Giuseppa Rina, mi sembra, Corleone. C'è un'auto intestata qui. Lei ha pagato sto bollo auto o no? No, io non posseggo neanche la macchina. Ma suo marito, i suoi figli hanno pagato? No, che vuol dire no? No. Che vuol dire? Avranno sbagliato. Hanno sbagliato indirizzo, dice lei? Certo. Ma non c'è una macchina lì intestata a casa sua? Ma non, io non ce l'ho macchina. Non ce l'ha macchina lei, niente. Perciò. Ho capito, suo marito ce l'avrà, suo figlio. Buonasera. Buonasera. Camilla Milano, vai. Salve. Io sono per una compagnia di assicurazione, non solo in Italia non si paga il bollo, ma nemmeno le assicurazioni, siccome 4 milioni di automobili non sono assicurate. Dati alla mano vuol dire una su 10. E sono ovviamente concentrate tutte al sud Italia. Quindi dissento con lei nel fatto che nel momento in cui dice il fenomeno è minoritario, cioè il problema non è sul bollo, cioè sul si paga. No, ma ho capito, ma qui stiamo parlando di una cosa che è uscita fuori sulla Sicilia e sul bollo, poi l'assicurazione è un altro discorso. Sì, però direi che non è trascurabile, anche perché anche lì mi sta dicendo tutti adesso, gli italiani pagano di più. Tu mi stai dicendo adesso che c'è una grande evasione dell'assicurazione, evasione, poi in realtà non è evasione, uno può anche decidere di non assicurarsi, diciamo, poi ne paga le conseguenze, diciamo, no? Ma no, non le paga in realtà, perché le pagano tutti gli altri italiani, essendoci un fondo al fine di garantire, appunto. Quindi direi che tutti gli italiani ci rimettono, lei compresa, io compresa, che la paghiamo e paghiamo una quota dell'assicurazione per questo motivo. Va bene, Antonio da Bari. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, ti volevo dire, ma guarda un po', non è che la gente non può pagare il bollo, non vuole pagare il bollo non lo può pagare. Non lo può pagare? Non lo può pagare. Ma che vuol dire non lo può pagare? Se non lavora e c'è la macchina, è già tanto che paga l'assicurazione. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Che vuol dire? Ma non può essere una... parlare dei tuoi 200.000 euro di... Ma non c'entra una mazza, amico mio, ma non c'entra nulla. Non c'entra niente, c'entra. Non c'entra niente. Mettiti nei panni di chi non ha lavoro. Ma cosa vuol dire? Se uno ha la macchina, paga il bollo, punto e basta. Cioè, io sono contro il bollo, lo vorrei sopprimere il bollo come tassa, no? Come tassa annuale. Anche perché la benzina costa tanto, le strade sono rotte, quindi la sentire il servizio che noi, vabbè, anche pagando. Se uno però ragiona così, dicendo siccome il servizio non c'è, non si paga, uno non dovrebbe pagare manco le tasse per i disastri che offre, diciamo, lo Stato. È normale che se vedi i politici come ci governano, è normale che appunto. Allora, Antonio, se c'è un'evasione come quella che è stata certificata di 1 miliardo di arretrati del bollo auto dei siciliani, uno non può dire no, siccome le cose non funzionano, non pago il bollo, oppure siccome non me lo posso permettere perché è andata male quest'anno, allora non pago il bollo dell'auto. Perché io, ripeto, la tassa la vorrei sopprimere, qualcuno lo propose anni fa. Cioè, il bollo auto, la tassa, per me è anche incomprensibile. Cioè, uno c'ha l'auto, perché devo pagare? Già pago con le tasse le strade, perché devo pagare il bollo auto? Cioè, è una tassa inconcepibile, secondo me, il bollo auto. Si paga la tassa sulla casa, la tassa sulla... Ma lasciamo perdere, ma il bollo auto, uno già la manutenzione delle strade la paga con le tasse normali, perché devo pagare il bollo auto? Perché se c'ho l'auto, dici, perché inquino? Forse no, ci sarà una ragione perché uno paga il bollo auto, per me non bisognerebbe pagarlo, però siccome c'è, la Sicilia non lo paga, al posto della Sicilia lo paghiamo noi, fermi. Zanzara, vai! Tipi da Zanzara. Questo è forte, eh? Questo è fortissimo, quello di ieri, eh? Beh, ragazzi, grande battaglia ieri, grande battaglia. Paolo, un pazzo scatenato, sentite. Paolo da Firenze, vai. Paolo. Allora, perché si chiamano Rom e Sint? Sono zingari. Allora? Allora andrebbero bruciati vivi con un bel po' di alcol, ecco. Scusa, non ho capito bene, Paolo, vuoi ripetere in maniera più chiara? Questo a me personalmente pare bruciato, questo sì. Sì, allora Paolo, dunque, puoi ripetere bene perché non ho capito bene, mi sembra di non aver capito bene. Cosa bisogna fare con quelli che tu chiami zingari, cioè rom? Spargere l'alcol, sì, nei campi, sì, e bruciarli con loro dentro. Spiegami un po' qual è la tua idea dei rom, cioè cosa faresti? Se vuole il numero di telefono Palenzo glielo do, così brucio anche lui. Sì, no, vabbè, quello adesso. Attendiamo tranquillamente il numero di telefono, spero che la procura sia in ascolto. Ma quale procura? Ma quale procura? Dai, la procura, adesso tutta la procura. La polizia, no, scusa, vi ho detto la parola polizia, scusa. Magari era una metafora, No, che metafora, no, andrebbero bruciati anche i bambini degli zingari. E perché? Così poi dopo non crescono più nessuno, non c'è più nessuno, basta. qui a Firenze 10 giorni fa due rom, nonché zingari appunto, hanno preso una signora su una carrozzina paraplegica e gli hanno scippato la borsa e la collanina. Cosa gli hanno fatto a questi che sono già fuori? Beh, ho capito, li vanno bruciati, bruciati, vanno bruciati. Il motivo di bruciarli è ben preciso, è perché così non c'è da seppellire e da occupare altri posti della terra per loro. Ma scusami, perché diventano ceneri. Paolo, perché non lo fai tu allora, dato che sei così determinato? Perché non hai il coraggio, dovresti avere il coraggio di farlo tu direttamente. Perché lo sai benissimo che dopo 2 minuti ne arrestano. Hai fatto sentire uno che addirittura lo zingaro c'hanno la radio. Ma come c'hanno la radio su internet? C'hanno la radio. Ma in che senso? Ah, una radio, sì, una radio. Parlano, cioè, questi parlano. Vabbè, parlano, sì, adesso non è proibito parlare anche ai rom, cioè possono parlare, perché non possono parlare, secondo te? No, devono morire. Tipi da zanzara. Hai già fatto la denuncia, Parenzo? No, io no, perché non ho avuto tempo, ma certamente so che qualcuno la sta facendo, per fortuna, certo. Ma chi la sta facendo, scusa? So che per fortuna qualcuno la sta facendo. Ma che sta facendo? Ma chi? Da chi ti sei informato? So che qualcuno la sta facendo. Va bene, Nello da Catania, vai, Nello. Per fortuna. Lo paghi il bollo? Pronto? Nello, lo paghi il bollo auto? E come no se lo pago? Ci sì, mancherebbe poi altro. Poi è chiaro che se uno lo chiede, lo pagano tutti, no? No, io lo pago da sempre e se vuole, dottor Cruciani, le do i numeri di targa delle mie due macchine. No, per carità. Così lei verifica che sono pagati sul serio. Per carità, allora dimmi. Allora, io telefonavo per dire semplicemente questo, che solidarizzo col punto di vista del senatore Giovanardi. Su che cosa? Per quanto attiene alla liceità dell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. Vabbè, è un argomento complesso, dai, su, ci sono state sentenze di tribunale, cioè non stiamo adesso a parlare della liceità dell'uso della forza, che ci facciamo due coglioni così, dai. No, semplicemente per dire che quando si valuta se l'intervento delle forze dell'ordine è stato eccessivo, eccetera, bisogna vedere con chi se la sono vista, sì, e che tipo di reato dovevano impedire. Parlare in astratto è facile. Ma infatti in una terra come la Sicilia, per esempio, se si diffondesse l'idea che c'è un eccesso di uso della forza, noi qua saremmo rovinati, perché le forze dell'ordine non fermano più nessuno. Però Nello, in questo caso c'è stato un ragazzo fermato che poi successivamente è morto. Questo è perfettamente vero, ma bisogna accertare e dei poliziotti condannati per omicidio. È quello che bisogna accertare caso per caso. Ma chi è il cane? Che c'ha dietro di lei? Un cane? Che io c'ha? Non c'ho niente, sono in strada fermo, c'è un cane che abbaia in mezzo alla strada. Ah, ma dove? A Catania, in mezzo alla Sicilia, non si può impedire. Ma lo... no, il perché? Il randagismo è un fatto connaturato alla Sicilia. Però scusa Nello, voglio chiederti una cosa. A parte il cane che abbaia e il cane randaggio, dici tu, ma secondo te è vera questa statistica? Penso di sì, naturalmente, per cui i siciliani non pagano il bollo o non pagavano il bollo dell'auto, non si riesce a riscuotere l'arretrato. La cosa che i siciliani non paghino il bollo dell'auto è possibile. Che si tratti di una quantità eccessiva di persone dipende cosa significa eccessivo. No, e c'è un arretrato di un miliardo non riscosso, non è stato riscosso un miliardo. Ma bisogna vedere a quanti anni si riferisce. No, è a quanti anni? Dal 2000 al 2012, per cui 12 anni. Dal 2000 al 2012, in 12 anni il miliardo diventano 100 milioni all'anno. Beh, ho capito, ma non è che 100 milioni all'anno in una regione di 6 milioni di abitanti sono praticamente niente. Beh, ho capito, sarà niente, ma è un miliardo. Niente là. Se uno dice sempre niente. Ma sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è se pagare il bollo auto significa possedere la vettura, è un conto. Vabbè, ma che vuol dire? Se pagare il bollo auto significa contribuire alla manutenzione delle strade e quant'altro, si mettesse il bollo auto incorporato nei carburanti, si aumenti la C in maniera che il bollo auto si paghi tanto più quanto più si cammina e tanto meno quanto più la vettura sta ferma. Le grandi proposte di Nello, però non è male. Giuseppe dalla provincia di Lecco, vai col cane che abbaia dietro. Sì, Giuseppe, ciao a tutti. E io volevo dire questo, nel senso, ci lamentiamo della Grecia, di queste situazioni, ma anche qui da noi è così. Cioè, il fatto che io non pago il bollo auto, alla fine va, scusate l'espressione, in quel posto ad altri contribuenti onesti. Io non penso che in Sicilia non ci sia gente che non paga il bollo, ma sono pochi. ha capito? Su quindi questo non c'è, soprattutto se uno glielo chiede tutti quanti dicono pago. Ma infatti io mi indigno sul fatto della gente che giustifica di non pagare il bollo perché le strade sono rovinate, ma sono è come vantarsi al bar di non pagare le tasse perché io sono più furbo e quello che le paga è più scemo. Basta pensare che ad esempio in Sicilia non c'è neanche Equitalia, ma c'è una società che riscuote per conto della regione. Ma dove vogliamo andare? Cioè, veramente io mi chiedo, questo miliardo che adesso non hanno pagato i contribuenti siciliani, chi lo paga? Lo pagheranno gli altri contribuenti italiani. Quindi inizierei veramente a fare una proposta seria, semplice, di bloccare i servizi a chi non paga le tasse. Punto. Non paghi il bollo, non ti rinnovo più la patente. Ah, quello. Quello, ma in America così fanno, bloccano tutto, se tu non paghi le cose, ti bloccano dopo 2 secondi qualsiasi attività. Le bundure, di risanamento del cervello. Allora, in provincia di Vicenza c'è un sindaco che si chiama Ceron, il quale dice che bisogna sparare alle nutrie. Finalmente qualcuno che ci mette... della Lega? Sì, credo di sì. Ci mette un po' di zucca, sparare queste nutrie, rompono i coglioni nei campi. E questo dice giustamente chi ha un fucile, chi possiede un fucile, sparare a vista. Facciamo una prova, chiamiamolo un po'. Pronto? Ho un bel fucile, posso sparare a una nutria? Senz'altro, quando vuole, l'ordinanza c'è. Voglio sparare a una nutria. Bene, bene, allora, ascolti. Dica. Intanto mi dica chi è, perché sennò non riesco a capire. Beh, sono uno che sta in un campo con le nutrie che mi vengono a distruggere tutto dalle sue parti e voglio capire se posso sparare o no. Aspetti un secondo. Noi abbiamo pubblicato l'ordinanza, aspettiamo il giorno 20, dal giorno 20 in avanti, senza ci siano ricorsi, si può sparare. Si può sparare così, libertà. Fermo, che lei abbia, fermo. Lei deve essere in possesso di regolare denuncia del fucile. Vabbè, certo. Deve essere comunque, deve cacciare nella sua proprietà, punto 2, oppure far parte di un gruppo di cacciatori, che adesso li stiamo selezionando, per l'abbattimento. Ma se io invece voglio allevare delle nutrie? Se invece lei le vuole allevare delle nutrie nel mio cortile. Bene, lei le alleva nel suo cortile, le tiene rinchiuse in modo che non vadano fuori dal suo cortile, e quindi lei, penso, possa farlo. Ma queste cose qua, io sto facendo un'ordinanza per l'abbattimento. Ma posso poi portarla in comune per il battesimo, ad esempio, per avere un riconoscimento di stato civile della nutria? Beh, guardi, questo lo dovrà chiedere a qualcun altro, non a me. Cioè, vorrei proprio che ci fosse un riconoscimento della nutria, perché mi pare che ci sia una battaglia violenta nei confronti di questo animale. No, no, guardi, siccome, guardi, allora, diciamocelo chiaro. Che io posso proprio interpellare l'ONU, Ma interpelli chi vuole, a me non me ne frega proprio un piffero. Io chiamo l'ONU. Ma perché ci ha sbattuto il telefono giù? Non ho capito. No, cioè, non ho capito, forse è terrorizzato dall'arrivo dell'ONU nel suo comune. Però in realtà volevo dire questo, perché sto riandando a cercare la parola gargarismo, no? Gargarismo. Vabbè, era un insulto a Giovanardi, dai su. No, non era un insulto. Ma dai su, fermi. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Tu ti devi fare le punture. Le punture di risanamento del cervello. Allora. Allora, c'è una signora in una libreria di Livorno, in una libreria di Livorno, la quale non vuole vendere il libro di Schettino. Ora, va benissimo farsi pubblicità anche in questo modo, è una forma di pubblicità, va bene, per carità, però allora dovrebbe fare una dovrebbe scandagliare all'interno di tutti i libri che ha ed eliminare assassini, non so, se ha dei libri che narrano le gesta di Hitler o di Mussolini, libri storici sul fascismo, no, non venda nemmeno quelli. Allora, cioè, non si capisce per quale motivo Schettino... No, è una trovata pubblicitaria, è una trovata pubblicitaria, una anche discutibile, ma come trovata pubblicitaria a costo zero, come... Non vendo il libro di Schettino perché non si può, uno che ha ammazzato 32 persone non può scrivere un libro, che cazzo c'entra, dai. Ho messo semplicemente un fogliettino di carta da fotocopie con scritto semplicemente che io non vendo questo libro. Non credevo di fare così scalpore positivamente, fortunatamente per ora, a parte qualche critica. Dico semplicemente che il mio intento iniziale non era assolutamente la pubblicità, perché se no, ripeto, avrei fatto cose molto più in grande. Io non volevo che la gente entrasse, insomma, nella mia libreria dicendomi che voleva il libro di Schettino. Logicamente non mando via nessuno, però insomma, il libro di Schettino lo può cercare altrove, ecco. Vabbè ragazzi, dai, ma è una puttanata, dai, ma non vuol dire nulla questa roba, non vuol dire niente, cioè, allora elimina tutti i libri di presunti assassini o assassini che hai nei tuoi scaffali, dai, su. Beh no, gli dà fastidio solo quello e ha fatto una protesta solo su quello, ma si taglierà probabilmente una fetta anche di cioè magari qualcuno veramente non va, peraltro è una pubblicità, però magari si taglia una fetta di pubblico, eh. Allora, andiamo a Caserta, Antonio, vai. Antonio? Giuliano d'Ancona. Pronto? Sì, dimmi Giuliano, dimmi. Ci sono? Sì, sì, ascolta, ci sei. Ascolta, io sono uno dei coglioni che paga il bollo. Anch'io lo pago. E poi è tassa di possesso. Ma io una cosa mi chiedo, nella regione Marche, appena te non paghi il bollo, nel giro di uno o due anni... arrivano gli arretrati eccetera eccetera, giù in Sicilia come cazzo funziona? Come funziona che fa i controlli? Beh no, che la società che si dovrebbe occupare di riscossione non fa il suo mestiere, molto no. Semplice, oppure arrivano le cartelle esattoriali e quelli che se ne fottono. Credo sia sempre Equitalia, però no, si chiama Riscossione Sicilia. Ah, è quella della regione, è quella della ho regione. Capito, funziona tutta bene, sì, una bella mafia, ho capito, via. Vabbè, allora. E poi un'altra cosa, volevo dire, a proposito degli obiettivi sensibili della tomba di Dante e della Basilica di San Petronio a Bologna, sì. C'era lì, prima aveva chiamato un tal Regide che interpellato dice si può rappresentare Maomet Allà? Sì. E lui ha detto, ma ci si potrebbe anche rappresentare, mentre invece non è assolutamente vero, perché Allà è vietatissimo rappresentarlo in tutte le forme possibile immaginare, ma perché... certo, ma come se tu, ma per chiedi... fortuna noi ce ne fottiamo e lo, ma no, ma come e lo disegniamo, no. Lo stesso, beh, uguale anche per gli ebrei non si può rappresentare Dio, ma nessuno si sa, sì. Se mi dici, anche se me lo chiedi a me, si può rappresentare, no, io infatti non lo rappresento, ma se uno lo rappresenta dice come è considerato, ha bestemmiato tecnicamente, poi dopo sì, ho capito, vabbè, ma queste sono le follie delle religioni, ma va benissimo, ma no, follie, importante, importante dici, che se tu lo chiedi dici si può rappresentare, no, per l'ebraismo come per i musulmani, infatti nelle sinagoghe e nelle moschee non ci sono rappresentazioni di uomini, no, ma di... va benissimo tutto, ognuno può fare, può credere a quello che vuole, ecco, e può, appunto, non sono le conseguenze della cosa, ecco, appunto, se io però mi metto a rappresentare Maometto, non mi devi rompere i coglioni perché io vivo in questo mondo e no, tu... quindi dipende come lo rappresenti chiaramente, perché sennò qualcuno lo può considerare un'offesa, no? Ma sì, no, d'accordo, ma l'offesa è lo stesso, è il fatto stesso di rappresentare, e uno paga le conseguenze dell'offesa che fa, sì, ma no, che fanno, t'ammazzano per l'offesa. Ripeto, nei paesi civili non funziona così, funziona che però se uno offende ci sono altre ma sedi. Ma questi qua considerano l'offesa anche il solo rappresentare, questo è il punto. Al fatto stesso che tu rappresenti e disegni Maometto, anche se non in una posizione o con delle parole offensive. No, non è esattamente così. Ma come non è così? Non è così. Cioè, come no? È considerato una bestemmia o un'offesa rappresentare Maometto? Sì, ma non mi pare che nessuno abbia sollevato la questione dei milioni, di un milione di musulmani, perché sono un milione, poco di più, che risiedono in Italia. Non mi risulta che ce ne sia uno solo che abbia mai sollevato una questione di questo tipo. Cioè, Non mi risulta, perché viene rappresentato poco in realtà a Maometto. Davide da Vicenza. Non c'è bisogno. Poco. Non c'è bisogno, perché nelle vignette non si può rappresentare. Ci sono pochi che rappresentano. Le vignette offensive, secondo me, no. Ma come no? Ma che vuol dire offensive? Ma l'offesa dipende da è una questione soggettiva. Cioè, Davide da Vicenza, dai. Beh, è soggettiva. Ma dai, bisogna vedere che tipo di vignette, dai. Appunto. Comunque, certo, nulla giustifica la violenza. Ma quello chi l'ha mai detto? Ma per carità di Dio. Vai, Davide Vicenza, dai. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Niente, io volevo fare due precisazioni. Intanto volevo dire al signor Nello che ha chiamato prima che dice che appunto bisogna vedere chi ti trovi di fronte, però c'è anche il lato opposto, nel senso che se io sono da solo contro quattro persone, probabilmente faccio fatica anche a difendermi. Una cosa. Ma che cosa? Scusami, non ho capito. Scusami, non ho introdotto. Del discorso di Aldrovandi, del ministro Giovanardi. Ah, che ha parlato prima. Beh, insomma, pensare che Aldrovandi fosse un pericolo per quei poliziotti mi sembra piuttosto difficile. No, però, esattamente. E poi volevo dire un'altra cosa. Se il signor Giovanardi, il ministro Giovanardi, stava parlando con una bottiglia di Lambrusco e un cotechino appena tagliato. Perché? Perché le foto sono talmente evidenti che il ragazzo ha subito delle percosse. L'infarto può venire in modo naturale. Vabbè, ragazzi, però non ma è che se uno... una persona sì, però non è che le sentenze morte. Le sentenze si possono anche discutere, però non è che ogni volta che sono contrarie a quello che uno pensa o alle proprie convinzioni sono sicuramente taroccate. È interessante che su queste vicende Giovanardi diceva abbiamo la spiccata tendenza a fare l'ispettore Clouseau. Ecco, questo vabbè, è. Ma quello avrà letto le carte, punto e basta. Sì, ma è singolare che un senatore si fissa su queste cose qui che riguardano le azioni della polizia e le accuse alla polizia. Si è fissato, ha il suo, diciamo, anche il suo elettorato in questo mondo qui, ma non mi sembra una cosa così scandalosa. C'è chi ha l'elettorato invece nei centri sociali, in quelli che si oppongono alla TAV, lui ha l'elettorato tra le forze dell'ordine, tra quelli che credono nelle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Non mi pare una cosa così incredibile. Cioè, fa parte della politica, poi uno giudica quello che una persona dice, non il fatto che stia sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Quello mi pare scontato anche per motivi elettorali, di marketing elettorale. L'Italia ha bisogno di un grande ritorno. Gli italiani hanno bisogno di un nuovo film. Gli italiani hanno bisogno che Ilona Staller faccia l'ultima impresa. Gli italiani hanno bisogno che Cicciolina torni sul set. L'ultima opera, l'ultimo film, l'ultimo porno di Cicciolina, però mancano i quattrini. Ilona? Ciao, che bella presentazione! Come stai? Ciao a tutti, buona serata, tutto bene, grazie. Senti, allora, io non ho capito una cosa, tu qui proprio dalla Zanzara hai annunciato tempo fa... Ti rendi conto che lei è onorevole come Giovanardi, eh? Sì, si può anche dire onorevole. C'è un po' di differenza, però... Sono d'accordo con te, cara onorevole. Ma ti io piace con l'onorevole Cicciolina? Ti piace essere chiamata onorevole? Beh, ascolta, non so se il titolo rimane, ma io non lo utilizzo per niente, t'assicuro. Non l'hai mai utilizzato? Qualcuno ti chiamava? No, figuriamoci. No, io mi chiamo Cicciolina, Ilona Staller e mi va bene. Senti, così. Ilona, io voglio capire una cosa. Tu qua hai annunciato qui alla Zanzara che volevi fare l'ultimo film porno, cioè volevi tornare a fare un film porno, no? Allora, ecco, la cosa sì che voglio... è così. A che punto siamo? Quando non è un ritorno, intendiamoci. Sì. Ho buttato, ho fatto un articolo su un giornale che vorrei regalare a tutti i miei fans in tutto il mondo, e ce ne sono tanti, da Polo Nord a Polo Sud, insomma, in tutto il mondo, e quindi fare un film molto bello, costoso, però servono dei soldi. Quanto serve? Costo. Quanto serve? Beh, per fare, innanzitutto io vorrei dire una cosa, che il film e tutti i film che io feci, parlo di molti anni fa, avevano sempre una storia, avevano della regia, insomma, noi scendevamo dei soldi per poter... oltre ma una storia, no, io ne ho visti un sacco di film. Le storie erano delle grandi storie. Servirebbero 400.000 euro. Io ho visto grandi scopate nei due film, soprattutto. Posso dirti una cosa? Sì. Visto che ci sono dei cicciolini che perché mi arrivano su Facebook, su Twitter, su Instagram, sul social network, tutte le richieste, dai, quando arrivi con il nuovo film. Promuoviamo una cosa. Io cara, sono disposto a contribuire qualora, con questa clausola, e voglio che Giovanardi faccia la comparsa. Beh, ma non a sfida. Stupendo. Allora, aspetta una cosa. Sono disposto però veramente a contribuire, a tirar fuori anche 150 euro. Se tutti i cicciolini della Zanzara, la Zanzara per il porno, Zanzara... un'altra condizione, che deve essere un colossal tipo Ben-Hur, cioè con è un colossal, sì, tipo così, cioè, da tutto il mondo, cicciolini da tutto il mondo, e il cicciolino Giovanardi, hai detto sempre, speriamo che non è un'offesa, che niente, perché vuole trovargli un ruolo, ma non attivo, è un ruolo tipo devi scrivere una parte, io sono disposto veramente a dare 150 euro, anche di più, no, 150 no, basta un piccolo contributo, perché ma io, se c'è Giovanardi come allora comparsa... Però mi viene in mente una cosa, un'idea in questo momento. C'hai davanti il tuo IBAN di una banca? Il mio, dici? No, Ilona, sì. Il mio c'ho anche io. No, dimmi un po', Ilona. Datemeli a me che poi ci penso io. Che è sta cosa? Che è sto rumore? Devo trovare. È lei col telefono. È lei, allora, dunque, aspetta. L'IBAN, sta cercando l'IBAN, perché adesso daremo l'IBAN di una banca di Ilona, in modo che arriviamo, ma scrivimi un messaggio. Te lo scrivo il messaggio, che così potete darlo. Benissimo. Allora, la grande idea è questa: versate cicciolini della Zanzara, 1 euro, 2 euro, 3 euro, poi noi controlliamo tutto, a un IBAN che adesso, ecco, mi è arrivato adesso il messaggio, a un IBAN che mi ha dato in questo momento Ilona Staller, del Banco Posta, controlliamo tutto, per la realizzazione di questo grande colossal. Vedete la causale, però. Ultimo film Staller. Io però voglio qualcosa di serio a livello di attori, se arriviamo alla cifra. Stiamo già facendo. Chi c'è di attori? Chi vorresti come attore? Ci saranno, diciamo, delle selezioni dei attori, attrici, insomma. Beh, questo sì, questo abbiamo capito. Generazione, trans? Pure trans? Ma perché mai no? Scusa, io voglio dei grandi cameo, Ilona. Voglio il cameo di Varoufakis, voglio Schäuble, tutti. Ci saranno anche i gay, tranquillo. Ci saranno pure i gay. Beh, ho capito. No, trans, voglio anche gay. Un grande cameo. Io ho sempre detto peace, love and no war. Tutto sommato, io ho sempre detto che io amo l'amore universale, quindi. Insomma, è importante. Vabbè, capito, ci saranno i film, però vanno divisi in categorie. Tu invece vuoi mettere tutto dentro: transessuali, gay, eterosessuali. Ascolta, l'amore non conosce limiti, la sessualità non conosce limiti. Un grande colossal, ma hai già la storia in testa o no? Sì, già la storia si sta, la sceneggiatura si sta, la storia. Fondi. Posso dirvi una cosa? Adesso do l'IBAN, però dimmi che storia è. Pensate che voi non lo sapete, ma in America già esiste. Sì. E un forum dove praticamente, se una persona tipo, che ne so io o chiunque, dice, ha un progetto, dice, per questo progetto io vi chiedo che, se potreste contribuire. Crowdfunding si chiama. Sì, vabbè, questo lo sappiamo. Sicuro che riescono a raccimolare i 300, 400, vabbè, 500. Dimmi una cosa, dimmi una storia più o meno, una traccia di questa storia, di questo colossal. Non mi prendere in giro, ti strozzo. No. Tesoro, fammi fare una particina così da guardone. Guarda, da guardone, ascolta, da guardone. È molto bello, perché non so. Vabbè, dammi una storia. Pieno di sesso gocciolante, ma sarà sicuramente gocciolante, con una storia molto bella. Ma dimmene una, che tipo di storia? A che ti sei ispirata? Che ne so? Ascolta, potrebbe essere anche tipo Lady Chatterley, però non è che te la posso Lady dire Chatterley. Di adesso che cos'è. Lady Chatterley. E sarà molto bello, molto. Ma mettici molto, dentro molto anche l'attualità, scusa. Ma tu andrai con tutti, uomini, donne, tutto? E qual è il problema? Perché, no, ma che ne so io? Perché in Italia non lo fanno generalmente anche nel ma privato. Con quante ma assolutamente. Tu con quante persone sei stato in tutta la tua vita? In tutto. Guarda, se tu parli di quanti amori ha avuto. No, amori. Con quanti uomini ti sei e donne? Sessualità su 7. E fuori da... Sicuramente oltre 1000, sicuramente. Più di mille. A parte i cinesi, chi ti manca? Ecco, i cinesi non ho mai avuto. No, aspetta. Io ho avuto un servizio fotografico in Cina. Vabbè, servizio fotografico è un'altra cosa. Vabbè, allora il codice IBAN dove partecipare a questo grande. Io a questa... te l'ho mandata. Sì, per... ecco, aspetta qua, ce l'ho. A questa grande raccolta fondi per la realizzazione dell'ultimo film porno, il grande ritorno sulle scene di Cicciolino, un grande colossal, è questo. Attenzione, IT86H07601. Ripeto, IT86H07601. 05 138 21 40 56 11 40 60. Ripeto, IT 86H07601 05 138 21 40 56 11 40 60. Versate anche un euro. La causa è: gli italiani rivogliono un porno. Riunitevi perché facciamo un film unico, l'ultimo film per tutti i cicciolini e cicciolline. Amico mio, il ritorno sulle scene, dai. Ciao Cicciolini, ciao. A domani, ciao. Ciao. Ti baci. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ciao amore mio. Radio 24. La passione si sente.